Nell'invocazione di Saffo, nel frammento 1 Did, la dea Afrodite, oltre che a Thanata, immortale, e Doloplocos, testitrice di inganni, che sono due epiteti atti a indicare lo stato divino e la specializzazione, come dire, professionale di quella singola divinità, e anche Poikilothronos, dispone cioè di un trono Poikilos dai molti colori. E siccome per motivi su cui non è qui il caso di indagare, a molti moderni ripugna l'idea della dea dell'amore seduta su un trono variopinto come un carretto siciliano, i traduttori si sono sempre dati un po' da fare su quell'aggettivo. Quasimodo stiraccando un po' il vocabolario, come può fare chi notoriamente poeta di suo fa accomodare la dea su un trono fiorito. Il Fertonani, a cui toccò alla fine degli anni 50 l'arduo compito di riportare l'America eolica a una veste italiana compatibile con la filologia, le concede un semplice trono screziato. Il Pontani, che pur essendosi forse mostrato più a proprio agio col greco moderno, ebbe 10 anni dopo il compito di ammanire l'intero corpus lirico agli acquirenti dei millenni einaudi, preferisce stare sul vago e non va oltre un enigmatico vario. E così via. Senza che della molteplicità delle soluzioni nessuno si debba scandalizzare, perché la traduzione da una lingua all'altra, anche quando non si tratta di poesia, non è mai un'operazione rigidamente biunivoca. Sfrutta le inevitabili sovrapposizioni semantiche tra i diversi patrimoni lessicali in cerca di un risultato che, senza tradire troppo la lingua di partenza, sia comunque accettabile in quella d'arrivo e non faccia troppa violenza alla sensibilità del lettore. Il quale lettore non può che essere grato a chi, azzardando a proprio rischio o pericolo una proposta interpretativa, gli dà modo di accedere a un testo che nell'originale gli sarebbe negato. Sa che quella proposta non è l'unica possibile, ma sa anche che se ne viene giungeranno delle altre all'orecchio, dovrà considerarle un arricchimento. Nella edizione di Saffo offerta a modicissimo prezzo ai lettori italiani nella serie I miti poesia dell'editore Mondadori, sì, ne ho già parlato la settimana scorsa, lo so, ma ce ne posso fare, compatitemi. Nell'edizione di Saffo nei miti Mondadori il trono d'Afrodite è intarsiato. E non è male, eh? Non è male, a me suona meglio che screziato e che vario, e corrisponde meglio ai dati archeologici, perché in Asia Minore, che è vicino all'isola di Lesbo dove abitava Saffo, ci sono note raffigurazioni di dei seduti su seggi a intarsi policromi. È una soluzione brillante di cui ci si vorrebbe compiacere col traduttore, se non fosse per una piccola difficoltà. Il nome del traduttore in tutto il volume non figura. Non c'è. L'editore, come ricorderete, si era proposto ad offrire ai lettori dei testi nella loro purezza, senza mediazioni erudite che al pari di un alto prezzo potessero respingerli, e questa esigenza si è spinta al punto di eliminare qualsiasi accenno all'identità di chi ha eseguito la mediazione fondamentale per un lettore ignaro del greco, fornendogli il testo in italiano. Come se il testo fosse quello e non potesse essere altro. Ora vedete, a me ogni tanto capita di firmare qualche traduzione e di farmi pagare per la medesima, sia pure a un livello letterario più modesto, e non vorrei che pensiate che parli spinto da interessi personali. Ah, il fatto è che si può benissimo decidere, volendo, di omettere le note e i commenti, anche se nel caso di Saffo magari di note e commenti ce ne sarebbe bisogno più che negli altri. Si può decidere che i rapporti tra gli esseri umani in fondo sono sempre gli stessi, per cui i sentimenti che univano la poetessa alle fanciulle del suo Tiasos sono perfettamente comprensibili anche a chi non ha la minima idea di che cosa diavolo sia un Tiasos e del suo ruolo nella società iolica arcaica. Si può stabilire che il lettore deve trarre tutte le informazioni utili alla comprensione del testo medesimo, ma un testo va comunque dichiarato per quello che è. E la caratteristica essenziale di ogni testo è quella di avere un autore. E l'autore del testo tradotto non si scappa, è il traduttore, che non avrà inventato la sua materia, non l'avrà concepita, ma certo l'ha stesa in quella forma lì, e di quella stesura è l'unico che porti responsabilità. Ed è questo il punto. Perché i curatori di quella collana, per ragioni che non riesco assolutamente a immaginare, hanno deciso di presentare ai loro lettori dei testi anonimi, la cui responsabilità dovrebbe essere addebitata in toto all'autore di un originale che appunto in quanto viene presentato tradotto viene dato per inattingibile. E come se Saffo o gli altri autori stranieri della collana, anche loro non hanno indicazione di traduttore, come se Saffo avesse scritto in italiano. Immagino che chi ha preso questa strana decisione l'abbia fatto in nome della poesia e della sua capacità di rifuggere al di là di qualsiasi maltrattamento testuale, ma il risultato che hanno creato è soltanto un falso, un testo che pretende opera di qualcuno di diverso del suo legittimo autore. Ma la cosa più curiosa di tutte è che, quel volumetto non è privo del tutto di riconoscimenti per chi ci ha lavorato. Ci è correttamente riportato il nome del direttore responsabile della collana, secondo l'obbligo di legge, e in quarta di copertina sono citati il nome dell'art director, quale che sia la sua funzione, e quello dell'autore del progetto grafico. Tutti i seri professionisti che hanno validamente collaborato a configurare il prodotto editoriale e che, a differenza di chi ha scritto le parole che pure compongono il libro, mietono il riconoscimento che spetta loro. Ma appunto... che a chi pubblica un libro oggi interessi molto poco delle parole che vi sono contenute, per non dire dell'autore che l'ha scritto, lo sospettavamo già da un pezzo. Adesso, se non altro, ne abbiamo la conferma.